Storielle. Storiacce di Raffaella Calandra. Città di rivoglione, ma la vita che intossica e assai sta serenata. Avevano scelto il posto e preso il ferro. Volevano fare un colpo grosso, un colpo da grandi, uno di quelli che in certi quartieri a Napoli ti fanno rispettare, anche se la tua faccia è liscia come quella di un bambino. Tutto è finito invece con Anthony, che ora sta lì con un proiettile nella testa e una cartella clinica che lo dà già per morto. Anthony che lotta come un leone, si dispera la mamma. Anthony che, nonostante quel suo nome da lì di lontani, ora rischia di fare la stessa fine del padre, ucciso nel 99 da un carabiniere mentre cercava di rapinare un ufficio postale a Secondigliano. Lui e il suo amico avevano scelto invece una tabaccheria di via Cirillo, zona della stazione centrale, per fare il colpo il 3 gennaio, ma si sono ritrovati di fronte un poliziotto in borghese che ha sparato, e ora uno è in carcere, l'altro Anthony, 17 anni e i muscoli evidenziati sempre in magliette aderenti, è ancora intubato in rianimazione ma in coma irreversibile. Anthony, ultimo di un lungo elenco di minorenni arruolati dalla malavita o che giocano in proprio a fare i baby boss e rapinano, fanno paura ai coetanei, spesso uccidono o finiscono loro stessi uccisi. Anthony, come molti altri certi bambini. Rosario di espressioni non ne ha quasi. Per la sua faccia è sempre tutto normale. Cose come la meraviglia o lo smarrimento, o l'allegria o la pena o la ripugnanza non hanno presa su di lui. Rosario guarda succedere le cose fino alla fine. Si prende quello che può, finché qualcuno non glielo toglie. Rosario rimane dov'è quando la vecchia, aggrappata alla borsa, viene trascinata dalla Vespa. Rosario si infila nella folla per vedere il morto ammazzato e tocca la segatura impregnata di sangue con la punta della scarpa. Rimane pure quando arriva la mortuaria. Guarda l'aria con le braccia alzate, mentre i falchi lo toccano lungo i fianchi e dentro le cosce. Rosario non li guarda in faccia quando poi gli danno il pizzicotto e gli dicono: «Tu tieni una brutta fine preparata, spera che ti arrestiamo prima». Così scriveva Diego De Silva, che sentiremo nella seconda parte di Storiacce, e quella faccia di Rosario è la stessa di Anthony e di tutti i guaglioni e malavita che diventano soldati della Camorra o seminano il terrore con le loro bande, come Ciro, il fratello di Anthony, che a 17 anni, anche lui, fu fatto fuori dai sicari del clan Bosti, attivo nel centro storico, perché non voleva rispettare le regole dei boss e le rapine, lui voleva farle da solo. Un quadro che ben conosce il procuratore aggiunto di Napoli, Federico Caffiero De Rao. Tutti i quartieri napoletani sono in qualche modo occupati dalla Camorra. Vari gruppi nel napoletano si sono divisi il territorio, con la conseguenza che nelle fasce sociali più deboli, laddove le esigenze di sopravvivenza sono più marcate, appare evidente come laddove mancano i riferimenti famiglia, scuola, il modello finisce per essere il boss della Camorra, quello che una volta nel quartiere era capace di tenere sostanzialmente l'ordine, quello al quale si rivolgevano per risolvere i contrasti interni. Usava la parola modello. Abbiamo più volte sentito parlare e commentato anche notizie su Facebook di messaggi e di gruppi che inneggiano a questo o all'altro boss, di scritte di vario tipo che compaiono e di dimostrazioni in qualche modo così di mitizzazione di questi boss. Ma anche laddove non è strettamente una questione di Camorra, c'è un'estrema facilità con cui si impugnano le armi e quindi si corre il rischio di usarle o di essere vittima di quelle stesse armi. Mi riferisco ad alcuni quartieri della città, laddove la Camorra ha un peso anche di rilievo nella vita di quartiere, è evidente che il modello non può che essere il personaggio rispettato per la violenza che esercito ha esercitato, per l'intimidazione che è in grado di diffondere. Credo che il messaggio che viene molto spesso lanciato finisce per dare del più forte l'immagine dell'uomo che ha raggiunto il proprio risultato, colui che riesce a prevalere sugli altri è il modello da seguire. Gli episodi di bullismo oramai sono all'ordine del giorno e essi dimostrano che negli adolescenti, nei ragazzi, vi è un modo di pensare che è un modo di pensare che poi individuiamo come caratteristica propria della camorra. È il più forte quello che viene rispettato. E questo certamente finisce per contribuire a diffondere ancor più il fenomeno del bullismo, che a volte poi si traduce anche in episodi come quelli delle rapine. Non dimentichiamo che fatti di questo tipo non sono più propri soltanto delle categorie sociali meno abbienti, ma a volte autori di questi episodi sono anche giovani che appartengono a famiglie molto facoltose, e giusto per il gusto di sentire determinate emozioni a volte invece per le esigenze economiche derivanti da un consumismo che supera qualunque immaginazione, notiamo che determinati fatti vengono commessi anche da giovani che sono al di fuori comunque dei circuiti criminali. Quindi, procuratore, quel gesto, quella tentata rapina, quell'arma impugnata anche da ragazzini, a volte hanno 14 anni, in quest'ultimo caso hanno 17-18 anni, è il battesimo prima di entrare, diciamo, nel mondo dei grandi? Molto spesso i rapinatori o coloro che commettono fatti violenti, quando naturalmente sono inseriti in determinati circuiti criminali stabilmente, diventano la prima fonte di reclutamento delle organizzazioni camorriste. L'esecuzione delle estorsioni è proprio rimessa a soggetti che esercitano violenza. Questo reclutamento appunto avviene innanzitutto in coloro che hanno dimostrato caratteristiche di questo tipo. Diciamo che è una scala criminale che consente ai più giovani di raggiungere livelli di criminalità di maggiore allarme, nello stesso momento apre le porte anche al crimine organizzato quando vi è una apertura stabile al circuito criminale. Di volta in volta i meno giovani che sono entrati in questi circuiti criminali o hanno aderito all'organizzazione di conseguire livelli ancora più elevati. Se i capi delle organizzazioni camorriste, anche quelle strutturate da un punto di vista economico sul modello mafioso, hanno come prima caratteristica quella della particolare freddezza nell'esecuzione degli omicidi, e questo lo posso dire con riferimento ai casalesi come con riferimento ad altre organizzazioni, credo che ben si comprende come la partecipazione a fatti delittuosi che sono di rilevante gravità, e la rilevanza va vista anche con riferimento all'età, è evidente che di volta in volta può essere anche la strada per entrare stabilmente nel crimine organizzato e conseguire poi livelli più elevati. Procuratore, sbaglio o c'è stato progressivamente un abbassamento della fascia di età di questi baby criminali, cioè sia nei casi di rapina sia anche nell'arruolamento da parte della camorra in questo caso? Sicuramente è così, abbiamo rilevato in plurime occasioni che soprattutto nei quartieri come Campia, Secondigliano, laddove il traffico di sostanze stupefacenti è l'attività preminente, i giovanissimi vengono reclutati, addirittura i più piccoli ragazzini di 8-9 anni vengono utilizzati per mantenere la droga, altri per fare da sentinella, quelli un po' più grandi per fare da sentinella, quelli ancora più grandi per contattare o essere contattati da coloro che hanno bisogno. Sono organizzazioni che si muovono oggi anche con il contributo di ragazzini di giovanissima età. Un problema che secondo lei, ecco, che tipo di risposte dovrebbe avere? Cioè i minorenni possono essere, sono diciamo meno facilmente anche raggiungibili dalla legge per varie ragioni. Adesso c'è stata anche la senatrice del PDL, la Colli, che ha detto che anche per casi di cronaca tipo questo sarebbe auspicabile un federalismo, così che anche le autorità locali sappiano prendere delle iniziative più appropriate, ecco, per evitare che appunto fin da giovanissimi si finisca per compiere atti di violenza di vario tipo o per essere appunto arruolati dalla camorra. Secondo lei, ecco, qual è la strada? Io credo che il primo riferimento dei giovani deve essere la scuola. Non è pensabile che soprattutto in determinati quartieri il problema venga affrontato solo dai parroci di buona volontà, perché le strutture sociali sono totalmente inesistenti. È evidente che per affrontare seriamente un problema di questo tipo sarebbe necessario investire. Mi sembra che ogni qualvolta si parli di investimento la risposta è spesso negativa in una condizione economica quale quella attuale. Da osservatrice esterna dei fatti di cronaca che succedono anche a Napoli, mi sembra di vedere che l'immagine, diciamo, di questi, forse sono l'evoluzione dei guappi, no? Sì, dei baby boss che si atteggiano a grandi padroni del territorio, passi attraverso l'immagine plastica di due, tre ragazzini sui motorini che spadroneggiano in alcuni quartieri della città. Anche da parte della procura, se non sbaglio, era stato più volte segnalato questo tipo di incremento di reati legati ai ragazzini e legati all'utilizzo anche che di un mezzo come quello del motorino fanno. Ma oramai questa è la modalità costante di esecuzione delle rapine, soprattutto in danno di più giovani, fatti commessi da giovanissimi che in gruppi di 4, 6, 8 con altrettanti motorini finiscono per accerchiare la vittima, alla quale di volta in volta viene sottratto il cellulare, il denaro, lo stesso mezzo di trasporto e così via. Sono delle piccole bande e quindi diciamo che in nuce corrispondono sostanzialmente a quei gruppi che poi da adulti finiscono per controllare stabilmente determinati territori. Bisognerebbe intervenire. Cioè per la creazione di una rete di servizi sociali? Una rete di servizi sociali, io credo che quella è l'unica soluzione. Una parola, controllare il territorio dal punto di vista dello Stato di diritto. Si è sempre detto che i bambini non erano utilizzati in alcun modo dalle mafie, camorra compresa. C'è stato un momento in cui è caduto anche quest'ultimo tabù e i bambini e i ragazzini hanno cominciato ad essere sia vittime che diciamo soldati dell'esercito della camorra, e quindi a catena la facilità del ricorso alla violenza da parte dei più giovani si è esteso? Credo che siano anni che ciò accade. Il reclutamento dei giovanissimi, quasi bambini, in questi eserciti di camorristi è un fatto direi assodato. La questione è di volta in volta quella del ruolo che di volta in volta assumono i ragazzini. Il più delle volte finiscono per essere soltanto strumenti per detenzione di sostanze stupefacenti, altre volte possono essere essi stessi strumenti per l'occultamento anche di armi, altre volte possono essere lo strumento del collegamento con acquirenti di droga. Questo però lo ricollocherei soprattutto in quei quartieri in cui lo spaccio di sostanze stupefacenti è enormemente diffuso. Certamente fatti di questo tipo non avvengono laddove l'organizzazione camorrista che controlla le attività criminose ha un potere che consente di controllare capillarmente il territorio e ha una maggiore stabilità sullo stesso territorio. Il fenomeno dell'utilizzazione dei ragazzini anche per l'attività criminosa da parte delle organizzazioni camorriste avviene per le organizzazioni che operano in Secondigliano, in Scampia, certamente non avviene laddove l'organizzazione camorrista ha una struttura sul modello mafioso, una struttura militare, una struttura economica e imprenditoriale, laddove è più affinato il modello organizzativo, non si ricorre ai ragazzini, essendo diverse le attività criminose rispetto a quelle invece che possono consentire l'utilizzazione dei giovani di minore età. Rosario lo sa che qualche volta va e qualche volta no. Rosario lo sa anche se ha 11 anni e lo sa perché una mattina, dopo aver preparato la colazione alla nonna, prese la borsa dell'allenamento, si vestì da calciatore ed uscì di casa per compiere il suo primo omicidio. Come Rosario, protagonista di Certi bambini, romanzo di Diego De Silva, anche Anthony lo metteva in conto che un'arma come quella che lui impugnava e che a lui lo faceva sentire così grande e potente poteva essere puntata proprio contro di lui. E così è stato lo scorso 3 gennaio a Napoli durante una tentata rapina in pieno centro. Ora Anthony è in coma irreversibile, come è successo già a molti altri ragazzini prima di lui arruolati sempre più giovani dalla camorra, come abbiamo sentito nella prima parte dal procuratore di Napoli Federico Caffiero De Rao. Ragazzini che soprattutto in certi quartieri dove i palazzi sono così fitti che si alzi la testa a malapena riesci a vedere il cielo, di espressioni quasi non ne hanno sul viso, come scriveva Diego De Silva. Sono bambini che sono stati sostanzialmente privati della loro infanzia, privati della libertà e del diritto di essere se stessi, che sono stati immediatamente utilizzati e reclutati, diciamo, ed addestrati a non avere emozioni, soprattutto a non avere nessun senso etico, nessuna capacità di distinguere il bene dal male, quindi non sentire assolutamente questa dicotomia, il che significa non soltanto essere capaci di fare il male senza colpo ferire, ma di essere capaci di fare il bene con lo stesso gesto e senza subire alcun trauma tra una polarità e l'altra. Rosario, il suo Rosario, infatti, di espressioni quasi non ne ha e per la sua faccia, lei scrive tra le prime pagine del suo libro, è sempre tutto normale. Chi sono questi bambini? Perché certi bambini arrivano anche giovanissimi, anche a 14 anni, ad avere già questa faccia senza espressioni e a usare le armi per tentare colpi, tentare rapine, mettendo casomai in conto anche che quelle stesse armi potrebbero essere usate contro di loro, come è successa solo ultimo dei casi qualche giorno fa ad un altro minorenne napoletano. Il bambino non è semplicemente un'entità biologica e naturale, è soprattutto un prodotto della nostra cultura. Il bambino è quello che ne fa, chi lo genera e chi si occupa della sua crescita, per cui è normale che si risente dell'ambiente in cui si nasce, in cui si cresce e quando, come dire, i criteri, le idee guida del vivere sono quelle e non altre, è inevitabile che il bambino le segua, le apprenda, le assorba. I bambini sono spugne. La regola per cui qualcuno dei certi bambini arriva a salvarsi è sempre un'eccezione, è sempre nella categoria dell'eccezionalità, che a un certo punto un bambino che nasce in un certo tipo di contesto riesce a modificare il proprio destino. A volte può essere anche l'irruzione di un'emozione improvvisa, no? Che il bambino non si aspettava di avere, se ha l'occasione, modo di decifrarla e farla diventare un altro criterio culturale possibile che istintivamente avverte, può anche cambiare strada. Ma non ci possiamo illudere che finché si vive in certi ambienti e finché i valori attraverso i quali si veicola l'infanzia sono quelli, il bambino abbia tante possibilità. Fa quello che ha intorno, sostanzialmente. Diego De Silva, da cosa nasce la storia di Rosario e degli altri del suo gruppetto? Da cosa nasce la storia di Certi bambini? Io era tanto tempo che avevo in mente quest'idea di un bambino che funzionasse un po' come una sorta di elettrodomestico, no? Che avesse accanto il manuale di istruzione, per cui bastava programmarlo e lui andava. E questa cosa la trovavo nello stesso tempo, e la trovo nello stesso tempo, tenera e terribile. Ecco, questa coincidenza di tenerezza e terribilità fa di questi bambini e certi bambini. La frequenza con cui episodi di cronaca e di violenza sempre più spesso coinvolgano dei bambini, ora arruolati dalla malavita, ora essi stessi, diciamo, raggruppati in bande che compiono anche dei veri e propri atti criminali, anche violenti, perché appunto questi, sembra quasi che questi bambini sentano come la violenza come una forma di iniziazione ad un mondo per adulti. Beh, ma quello è un codice che loro imparano. La violenza rimane malgrado tutte le evoluzioni possibili, malgrado anche i bambini di Camorra vivono sicuramente, per esempio, una realtà tecnologizzata, sicuramente utilizzeranno telefonini, computer, eccetera, però il codice primordiale della violenza, che è quello in base al quale quel tipo di educazione si trasmette, è rimasto tremendamente involuto ed invariato. È il codice dei guaglioni di malavita? Sì, è quello che permette di camminare a testa alta, di contrabbandare il senso, di mistificare il senso della parola rispetto con quello ben più semplificato e ben più squallido della paura, cioè mi rispetta chi ha paura di me, se io incuto timore allora sono rispettato. No, il problema è che, come dire, questo tipo di involuzione, che è tipicamente un'involuzione della violenza, si combatte con la cultura, e la cultura ha, diciamo, poca possibilità di attecchire in quel tipo di ambiente. Qui chiaramente entra in ballo la responsabilità della politica, non c'è niente da fare. Prima di dedicarsi completamente alla scrittura, ha fatto l'avvocato. C'è qualche caso specifico di cronaca che aveva maturato più fortemente in lei la decisione di scrivere questo libro su certi bambini? No, perché per la verità quando mi è venuta in testa questa idea, eravamo proprio all'inizio degli anni 90, e all'epoca la diffusione dei baby killer come strumento, diciamo come arma impropria da parte delle organizzazioni criminali, non era così diffuso. Purtroppo questa situazione è peggiorata e degenerata, e oggi probabilmente quel bambino di cui io ho narrato è un bambino ancora più, diciamo, ancora più acido, forse ancora più amorale di quello. E io ero proprio attratto, ero affascinato da quest'idea che era insieme letteraria e sociologica. Ora non so quanto ci sia riuscito, però forse il fatto che ne stiamo parlando oggi vuol dire che è un libro che è ancora della vita, insomma. Sembra quasi di vedere, forse quei bambini, Rosario e i suoi amici, ora sono quelli che camminano in tre o quattro sui motorini, che nei vicoli del centro storico, hanno la stessa faccia, diciamo, senza espressione quando scippa la borsa ad una vecchietta, o quando usano una pistola nei confronti di un tabaccaio, come è successo ad Anthony, questo ragazzino di 17 anni. Ci sono delle immagini in particolare di Napoli a cui, secondo lei, questa narrazione, diciamo, calza meglio? Non riesco ad ambientare mai precisamente le mie storie in un posto. Nella mia testa si compongono in maniera assolutamente libera, quasi come i montaggi cinematografici, no? Certe volte una stessa scena viene, come dire, artificiosamente ambientata in uno stesso posto, ma poi magari viene montata da pezzi differenti. Ecco, io faccio un pochettino così. Certo, credo che delle degenerazioni e delle amplificazioni di violenza siano molto più tipiche della periferia, cioè di quelle periferie che poi sono altre città in realtà, no? Sono molto meno metropoli, sono molto meno viscerali, ma sanno molto più di spazi squallidamente aperti, ecco. A Napoli si è ancora molto ancorati all'immagine che dallo scugnizzo è passata al guappo, alla banda dei guappi, gruppetti di ragazzini che sanno anche fortemente incutere paura nel bersaglio che decidono di attaccare, ora poi fino ai soldati della Camorra e essi stessi ai baby killer, ai baby boss. È questa la evoluzione? C'è qualcosa che si conserva ancora anche degli antichi scugnizzi, degli originari scugnizzi forse? Sì, sicuramente io credo che ci sia il filo di una tradizione che lega determinati atteggiamenti bullistici, macisti, che hanno molto a che fare con il controllo del territorio, con quella forma malintesa di rispetto di cui parlavo prima. Naturalmente dobbiamo pensare a forme estremamente evolute poi. Una cosa che è diventata, diciamo, di dominio pubblico, e io l'ho scritto in un mio penultimo romanzo, no? Quando provocatoriamente parlavo di camorra sostenibile, e che oggi si va molto facilmente oltre il segno, come dire, il guappo di una volta usava la violenza che gli serviva. ad ottenere un certo risultato. Certo. Adottava, cioè misurava una violenza che era proporzionata rispetto allo scopo, no? Che si prefiggeva. Aveva un limite, no? Misurava il proprio colpo a seconda dell'obiettivo. Adesso invece assistiamo ad un'assoluta sproporzione tra il grado di violenza e l'obiettivo che il violento si assegna, e questa è una cosa che fa saltare ogni codice, perché crea proprio un effetto proprio letteralmente terroristico. Cioè tu ti puoi aspettare una coltellata per una cosa minima. Ecco, questo è un tipo di deriva che è assolutamente moderna. Prima di chiudere, un'importante comunicazione di servizio: da sabato prossimo Storiacce inizia 15 minuti prima, sempre al sabato, ma alle 13:15, ricordate, 13:15, e poi le nostre Storiacce torneranno anche, e questa è un'altra novità, durante la settimana con le inchieste oltre alle interviste. Ci riconoscerete dalla voce, forse, e dalla sigla. E poi il calendario delle Storiacce lo troverete sempre sul nostro audioblog radio24.it/blog/calandra. Ciao, a sabato allora, ricordate, 13:15.